Ma secondo me la donna oggi come oggi vuole sempre stare a pari dell'uomo e a volte riesce anche a superarlo in determinate occasioni. Diciamo, il grosso exploit delle donne che vanno nel kickboxing è stato forse chiamato in causa la voglia di difendersi, la voglia di girare per strada, consapevole che possono difendersi e possono chiaramente eliminare un pericolo. Quindi questo è il grosso richiamo. Poi tutto il lavoro aerobico, tutto il discorso tecnico va in secondo ordine. Guarda, io cito sempre questa ragazza, Sandra, che saluto con tanto affetto, che è una grandissima atleta, e ti dico che mena più di un uomo. Ragazza, 25 anni, mingherlina, tranquilla, e però quando sale sul ring ha delle botte da uomo. E tanti ragazzi, quando io chiamo i ragazzi il venerdì sera e saliamo sul ring, facciamo un po' di scambi, e nessuno vuole fare i guanti. Devo fare i guanti io con lei.